Ci sono tasse che sembrano fatte apposta per non essere mai pagate. È il caso dell'addizionale sui soldi rientrati con lo scudo fiscale, i 182 miliardi rientrati in Italia con le sanatorie del 2001, 2003, 2009 e 2010. Il fisco, così come nell'intenzione di Mario Monti, contava di incassare oltre 2 miliardi di euro. Usiamo l'imperfetto perché di fatto si rischia di non incassare proprio nulla. Infatti i capitali fatti rientrare con gli scudi erano anonimi. Ora chi vuole tenere l'anonimato deve pagare l'1% per il 2011, l'1,35% nel 2012 e lo 0,4% negli anni successivi. Oppure può pagare una tantum dell'1% e perde la segretezza. Sui soldi anonimi, Savasandì, difficile mettere le mani. Ma anche nel caso in cui non lo siano più perché il titolare del conto ha movimentato i capitali scudati per l'acquisto di una casa o altro, è difficile poi rientrare del gruzzolo. Quei soldi infatti potrebbero essere stati già spesi. Banche e intermediari finanziari poi stanno mettendo le mani avanti. Le operazioni, dicono, risalgono anche molto tempo indietro e magari le banche nel frattempo si sono fuse, sono state acquistate, insomma, un bel pasticcio. Non a caso il governo, che aveva posto come termine ultimo per pagare l'imposta il 16 di febbraio, l'ha posticipato al 16 di marzo. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.